se arriva la querela ci difenderemo, no? Noi abbiamo fatto delle schede per i vari personaggi, uno di questi era sicuramente per Cavallini, per vedere di riaprire il processo. L'abbiamo sottoposta ai giudici, cioè noi non è che abbiamo fatto delle, cioè siamo andati a fare della propaganda in giro, no? Mi spiego. Abbiamo presentato ai giudici per vagliarle. I giudici hanno chiesto anche loro la riapertura del processo, perciò vuol dire che le schede sono state convincenti, quantomeno. Ecco, poi se lui ritiene di querelare, di fare degli esposti, non so quello che vuole fare, ci difenderemo nelle sedi opportune, insomma, ecco, con i documenti, eccetera. Ecco. Poi invece, proprio nell'ambito della deposizione, Cavallini sempre ha dichiarato di continuare a sostenere la cosiddetta pista palestinese, a pochissima distanza dall'incontro in cui ieri Fiore, che tra l'altro anche lui era stato sentito nell'ambito proprio di questo processo, aveva proposto invece una nuova pista che porterebbe in Russia e ai trotskisti. In ogni caso ci sarebbe uno stampo comunista dietro, comunque internazionale, diciamo che dopo quasi 40 anni si potrebbe dire che continuano a esserci dei tentativi di depistaggi. Voglio dire, sono tutte le stesse cose, trite e ritrite, cambiano dei pezzi, li rimettono in ordine, poi le rifanno, poi le sì, non, secondo me non c'è niente assolutamente di nuovo, ripeto, una parte viene fuori da quel libro che aveva fatto Priore, altre parti sono le parti vecchie, altre da documenti che vengono fuori per altre circostanze, ma fondamentalmente è sempre la stessa cosa, trita e ritrita, che cerca di diminuire la valenza delle sentenze, che sono, sai, sentenze passate in giudicato, bisogna avere delle cose molto serie per poterle, insomma, demolire, eccetera. Io ho sentito quello che ha detto Fiore, Adinolfi, insomma, quelle cose che hanno detto, e sono tutte cose, non si capisce per quale motivo dopo 40 anni tirano fuori queste piste nuove. Se le avevano, potevano portarle in procura, che le venivano esaminate, venivano controllate, verificate, eccetera. Hanno chiesto anche di fare un processo a livello di una corte internazionale, non capisco. Prima di solito si espleta, insomma, si fa uno esperimento quantomeno con le corti nazionali e poi si va all'estero, ecco, di solito, ecco, però faranno quello che credono, ecco. E intanto invece, appunto, continua il processo Cavallini, e al di là dell'udienza di oggi allargherei adesso un pochino lo sguardo per chiederti una valutazione, diciamo, rispetto a come è andato il processo fino ad ora. Il processo sta andando, secondo me, bene. Ci sono molte possibilità che emerga la figura di Cavallini anche per quello che è la sua valenza piuttosto importante all'interno della destra eversiva, e anche questo sarà un passo avanti per una verità più completa, ecco, tutto qua. Tornando invece alle dichiarazioni iniziali, diciamo, ai giornalisti di Cavallini, c'è stata anche il fatto di ritirare fuori questa, diciamo, presunta discussione con Torquato, in cui gli avrebbe detto che anche se non era colpevole, in fondo era fascista e quindi si meritava di essere condannato lo stesso. Cioè, io credo che questa sia una falsità spudorata, anche perché come associazione abbiamo sempre, noi nei manifesti ufficiali abbiamo, che la strage fosse fascista l'abbiamo messa dopo che si era aperto, dopo le sentenze, insomma, non dopo l'esplosione, tanto per intendersi, poi ognuno aveva le sue idee. Però, voglio dire, fare un'affermazione del genere con una persona che non si può difendere mi sembra una cosa assurda. E anche perché il comportamento dell'associazione di cui lui era presidente è sempre stato estremamente coerente, e fondamentalmente c'era prima la verità, poi tutto il resto, insomma, ecco, per intenderci.